Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, buon lunedì. Oggi in regia la parte tecnica abbiamo Fabio Cantadori, come sempre però abbiamo Laura Vanossi in redazione ed è una garanzia. Andiamo subito ai titoli del nostro sommario. Marroni, nere, rosse o bianche. Occhio alle macchie della pelle. I fumetti tornano di moda. Zumba, stare in forma a tempo di musica. Avete delle macchie sulla pelle? Bene, è normale, ce le abbiamo tutti, chi più chi meno, ma è meglio non trascurarle. Allora oggi abbiamo due esperti a disposizione che ci insegneranno a guardarle con attenzione. Il professor Marcello Monti, che è responsabile dell'unità operativa di dermatologia dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. E abbiamo in linea con noi il professor Giuseppe Monfrecola, ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli. Professor Monfrecola, le macchie possono essere presenti sin dalla nascita oppure comparire nel corso della vita? Possono anche variare di dimensione, colore, aspetto? Possono essere degli innocui inestetismi o invece essere qualcosa di più serio? Una cosa però è certa, almeno voi dermatologi dite così, le macchie vanno sempre tenute sotto controllo. Perché, professore? Io direi che fortunatamente la gran parte delle macchie che compaiono sul nostro corpo è ascrivibile a malattie che in genere sono ben curabili e risolvibili, quindi cominciamo a versare un po' di tranquillità, ma in altri casi le macchie costituiscono solo un problema estetico, però anche questo è importante, per le quali spesso comunque c'è rimedio. Infine, e questo è il punto più delicato a cui le faceva cenno, alcune macchie, mettiamolo tra virgolette macchie, in alcuni individui possono rappresentare l'esordio di qualcosa di più importante, come per esempio anche un tumore. E quindi il riconoscimento precoce di queste lesioni diventa importante per la salute del paziente. Professor Monti, allora quali sono le macchie sospette? Ma le macchie sospette sono quelle pigmentate, cioè quelle scure, marroni o nere, col colore verso il nero, che fanno pensare quindi a dei nei che vanno a evolvere, che possono evolvere verso il temuto tumore che si chiama melanoma, ma ci sono anche delle macchie più rossastre o più infiammatorie che possono comunque evolvere e diventare dei carcinomi, dei basaliomi, spinaliomi e così via. Quindi bisogna fare attenzione a quello che appare sulla pelle e soprattutto a quello che cambia nell'aspetto delle nostre macchie. 800 24 0024 se volete intervenire, oppure il 349 238 6666 se preferite scriverci. Allora direi, raccogliamo le idee per essere pronti a chiedere informazioni ai nostri esperti che rimangono in linea con noi sino alle 12. Sentiamo la nostra scheda. Hai macchie dalla nascita o ne sono comparse di nuove? Di che colore? Giallo, rosso, marrone, nero o bianco? Alcune di queste hanno cambiato forma, colore o superficie? Sono localizzate in alcune parti del corpo, come viso, braccia, spalle, schiena, oppure distribuite in modo uniforme? Alcune di queste sono cresciute rapidamente? Sono piatte o in rilievo? Ti hanno dato prurito o bruciore? Ancora due informazioni. Ti scotti facilmente al sole o ti sei scottato in passato? E qual è l'ultima volta che hai fatto un controllo dermatologico? Quindi tenetevi pronte, questa è un'occasione per intervenire, per ricevere indicazioni dai nostri esperti. All'800 24 0024, abbiamo detto, è importante il colore, parleremo delle macchie scure, marrone o nero, poi parleremo delle macchie gialle, poi delle macchie rosse, ma anche delle macchie bianche. Quindi in sequenza parleremo di nei, di macchie solari, sono generalmente marrone un pochino più chiaro, di quelle gialle che noi chiamiamo comunemente macchie di colesterolo, e poi parleremo di macchie rosse o angiomi. Quindi vi invito a intervenire subito e intanto tra poco parleremo di nei. Dopo l'estate, avete notato nuovi nei o qualcuno è cresciuto, modificato? 800 24 0024, il nostro centralino è già a vostra disposizione. Una mela al giorno. Questo un tempo era il loro periodo d'oro, l'inverno, la stagione della tosse e del raffreddore. Allora le nonne si mettevano a faccia in giù sulla pentola con un infuso bollente, pronta a inspirare con il naso, che nel frattempo era tappato, quindi occorreva metterci un po' di impegno, ed espirare con la bocca con un bel asciugamano sulla testa per non disperdere il vapore. D'altronde le nonne non avevano grandi alternative per liberare le vie respiratorie o decongestionare il naso, non c'era niente di meglio di fare i fumenti o su Fumigi. Poi per qualche anno sono caduti nel dimenticatoio e adesso piano piano pentoloni e asciugamani stanno tornando in auge. E se provassimo anche noi? Lo chiediamo al dottor Andrea Franzetti, primario di otorino laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, che è tornato a trovarci. Dottor Franzetti, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dottor Franzetti, se tornassimo anche noi ai fumenti, cosa dice? Sarebbe una bella idea? Ma io non ho mai smesso di consigliare i fumenti o su Fumigi ai miei pazienti, perché sono veramente un toccasana che aiuta tantissimo la fisiologia del naso. Infatti il caldo umido a livello del naso, queste gocciolone di vapore, permettono di migliorare in maniera importante sia la secrezione nasale, la qualità della secrezione nasale, sia la capacità di eliminare tutto quel muco che a volte si rapprende nel naso durante la stagione invernale, la stagione fredda, e che diventa particolarmente fastidioso. Spesso ci permette di evitare anche di assumere farmaci. Dottor Franzetti, allora i fumenti a chi li consiglia? In tutte le persone che sono predisposte a sviluppare riniti o rinosinusiti durante l'inverno, non solo quando è già comparso il muco e il raffreddore, ma spesso anche a scopo preventivo, fatte, non so, alla sera, una settimana al mese, quando inizia la brutta stagione, è importante, perché possono migliorare in modo preventivo la situazione nasale. Senta dottore, allora quindi come cura ma anche come prevenzione, ma all'acqua è meglio aggiungere qualcosa oppure basta il vapore, questo caldo umido a guarire? L'effetto curativo principale è proprio dato dall'umidificazione e dal tepore che si genera a livello del naso. Spesso può essere d'aiuto andare a creare un ambiente, si dice basico, cioè un ambiente che non sia acido a livello del naso, aggiungendo all'acqua per esempio un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Altri a volte aggiungono delle erbe. Le erbe balsamiche hanno più che altro un effetto gradevole quando uno fa il soffumigio, più che un effetto curativo. Si può aggiungere la camomilla, della malva. L'eucalipto. L'eucalipto, che è ancora più forte come sensazione, come odore. Però questo è più che altro per un effetto tonico, diciamo così, quando uno fa il soffumigio. Dottor Franzetti, quanto deve durare questo soffumigio per essere efficace? Ecco, io direi di non farlo durare più di un quarto d'ora, perché altrimenti anche, e soprattutto di stare attenti che non sia troppo caldo, troppo bollente, che il vapore non scotti la pelle, non dia fastidio agli occhi. E anche per questo io non farei mettere il cosiddetto asciugamano o telo sulla testa, lascerei in quello campo ce lo libero. Toglie? Sì, ecco, quello io lo toglierei perché non ha molto senso, perché l'importante è proprio il vapore quando esce dall'acqua. Senta, e poi aggiungiamo, noi ai bambini, vero dottor Franzetti? Ecco, io starei molto attento a noi bambini e molta attenzione anche negli adulti. Adesso ci sono tanti tipi di inalatori piuttosto che di anche chiamiamoli strumenti fatti in plastica che aiutano. Si mette dentro l'acqua tiepida e si mette dentro il bicarbonato o quant'altro, che aiutano a convogliare il vapore caldo verso il naso e evitano questi rischi, ecco, più che il pentolino. Sì, il pentolino, che tante volte era un pentolone, quindi comunque allora senza asciugamano, questa è la versione nuova del soffumigio, però va bene ancora, anzi in alcuni casi può svolgere addirittura una funzione preventiva. Dottor Franzetti, la ringrazio. Niente, la saluto, arrivederci a tutti. Buona giornata. Pronto soccorso. Grazie. Macchie? Sì, è un dalmata. Ti ispira? Sì. Tesoro, parlami meglio di queste macchie. Io ho usato quelle di leopardo negli anni Ottanta. Ma le macchie dei dalmata sono un po' diverse, no? Cordiali. Calorose. Classe. Meno vistose. Esattamente. Ti piacciono le macchie, Frederick? Oh, non penso, madame. Credevo ci piacessero le strisce quest'anno. Oh, che razza di leccapiedi sei tu? Ehi. Io comincio a vedere macchie. E con un estratto dal film La carica del 101, che di macchie parlava abbondantemente, torniamo ad affrontare il tema del giorno. Parliamo di macchie sulla pelle, piccole, grandi, chiare, scure, macchie da sole, macchie degli anni, macchie dal colesterolo, angiomi, nei, e direi di iniziare proprio dai nei. Professor Manfrecole, i nei vanno comunque controllati, ma chi deve essere particolarmente attento a questa indicazione? Ecco, lei dice bene, ci sono delle persone che devono essere più attente, poi ci sono gli altri che dovrebbero avere un'attenzione, ma diciamo senza alcuna angoscia. Allora, chi deve essere controllato con particolare attenzione? Innanzitutto chi ha sofferto già di melanoma o chi ha avuto un familiare sofferente di melanoma. Chi ha molti nei, questo è evidente, perché chi ha molti nei non riesce a tenerli sotto controllo, e anche perché il rischio tende ad aumentare, proprio per un fatto numerico. Soggetti che si scottano facilmente, e tra questi certamente quelli che hanno i capelli rossi, per esempio le lentiggini, le cosiddette felidi, ma i quali hanno un particolare tipo di melanine, sono melanine rosse che non proteggono, ma anzi possono creare dei problemi ancora. E comunque poi veniamo al resto della popolazione che deve essere controllato così in maniera preventiva, come si fa per tantissimi screening per di cercare preventivamente dei tumori in altre sedi corporee, così anche la visita dermatologica di controllo può essere programmata periodicamente. Naturalmente questo può far parte anche di una visita per altri motivi: si va dal dermatologo per farsi, non so, vedere una forma particolare di dermatosi, e in quell'occasione si chiede meglio una controllatina anche in nei. Una controllata in nei, mettiamola così. Professor Monti, c'è una regola che ci aiuta a tenere sotto controllo i nostri nei, o meglio a individuare precocemente quelli sospetti, perché proprio in modo facile, immediato, ci aiuta a memorizzare gli aspetti importanti. Viene chiamata la regola dell'alfabeto perché fa riferimento alle prime quattro lettere. Ne abbiamo parlato diverse volte, sempre quando abbiamo parlato di nei, ma ripetita iuvant, professor Monti? Sì, è la famosa regola del A, B, C, D, E, sono le prime lettere dell'alfabeto, e A sta come asimmetria, cioè un neo deve essere simmetrico, non una parte più sporgente e l'altra meno, i bordi devono essere regolari, il colore deve essere più o meno uniforme, non avere nello stesso neo un colore più marrone, uno più nero, uno più giallo. Le dimensioni, si dice che i nei al di sotto dei 6 mm siano benigni, non siano proprio dei nei, ma se crescono al di sopra possono destare qualche preoccupazione, debbono essere visti. Quello che è più importante però è certamente la lettera E dell'alfabeto, l'evoluzione, perché qualsiasi macchia, anche piccola, che non si ferma, che cresce, che cambia di aspetto, che continua ad aprire sotto i nostri occhi diversa, ecco, quello è certamente uno dei nei da portare in osservazione al dermatologo, perché potrebbe nascondere un melanoma. Professore, ma anche la localizzazione è importante, nella regola dell'alfabeto non viene presa in considerazione, quindi magari no, però alcuni ascoltatori, tra cui Antonio, mi scrivono: è vero che i nei sulla pianta del piede vanno sempre eliminati? Alcuni scrivono: è vero che sono quelli più pericolosi, vengono sulle braccia o sulle gambe delle donne? Insomma, c'è un po' di confusione sulla localizzazione, è da tenere in considerazione oppure no? Assolutamente sì. Per i maschi la frequenza maggiore avviene al dorso, sono i nei del dorso, quelli che peraltro facciamo fatica a vedere o a controllare, che poi evolvono in melanoma. Sì. E per le donne invece sono proprio quelle delle gambe, e almeno questo è negli ultimi decenni. Non c'è una spiegazione logica per adesso, ma certamente le donne devono porre molta attenzione ai nei che hanno sulle gambe, mentre quello della pianta del piede è più una diceria: abbiamo dei nei sulla pianta dei piedi che rimangono così tutta la vita. Beh, è bene farli vedere, ma insomma non c'è da preoccuparsi più di tanto. Professor Manfrecole, a partire da che età è meglio controllare i nei? Ma vede, non è che c'è una regola fissa, certamente le possiamo asserire che il melanoma è più frequente in un'età compresa tra i 20 e i 45-50 anni, quindi sì, Dire che quell'età è quella più critica, però qualsiasi età, in qualsiasi momento si notino quelle anomalie che poc'anzi il collega Monti riferiva, il neo va controllato naturalmente, e direi che la corretta procedura è quella di autoesaminarsi laddove è possibile, naturalmente vedere qualcosa che non va, passare dal medico di famiglia, il medico di famiglia rileva questa anomalia dal dermatologo, e il dermatologo a questo punto procede alla visita. Procede alla visita perché oggi il dermatologo ha a disposizione altri strumenti per controllare i nei, naturalmente non solamente l'occhio clinico. Che cosa c'è a disposizione e come deve essere fatto un controllo dei nei a regola d'arte? Deve essere fatto in un ambiente che permette una buona illuminazione, ovviamente, e a questo punto si può ricorrere a uno strumento molto semplice che si chiama dermatoscopio, un oggetto che permette di ingrandire meglio e quindi magnificare la lesione, o arrivare alla videomicroscopia di superficie, un esame che si fa con uno strumento un pochino più raffinato che ci permette di ingrandire di svariate volte, 25-50 volte, quello che stiamo osservando. Ovviamente questo permette all'occhio del dermatologo di cogliere particolari che altrimenti non coglierebbe, quindi attenzione, non è lo strumento che fa la diagnosi, è comunque il medico che in base alla sua esperienza, in base ai parametri e tutto ciò che ha studiato, che farà la diagnosi. Naturalmente lo strumento aiuta di avere, di raffinare la diagnosi sicuramente. Alessandro ci chiama da Genova all'800 24 00 24. Alessandro, benvenuto e buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ci racconti? Sì, no, niente, io ho due brevi domande. Dopo una scottatura al mare dietro la spalla, una scottatura importante perché mi si era formata addirittura una crosta, mi sono comparsi un sacco di nei. Sì. E sapere se devo preoccuparmi. La seconda domanda è: io ho sulla pelle poche, però alcune macchie grandi come dei chicchi di riso, ma di un rosso acceso, un rosso sanguigno. Sì. E anche questo volevo sapere se cosa devo fare, se devo preoccuparmi. Allora, due specialisti, ognuno di loro passa una domanda di Alessandro. Professor Monti, Alessandro si è scottato, una scottatura importante, addirittura con una crosta, e ha visto poi spuntare dei nei. Si deve preoccupare? Può essere la conseguenza di questa scottatura? Sì, senz'altro. In realtà non sono comparsi dei nei, sono comparse delle macchie che si chiamano lentiggini solari, la conseguenza della fotoustione, dell'ustione solare. Queste lentiggini solari rimarranno tutta la vita, anzi aumenteranno, difficilmente però evolveranno in melanoma. Un consiglio però è quello di stare la prossima volta molto più attento, perché si sa che ustione su ustione poi ci avvicina verso il melanoma, e quindi molta attenzione a non ustionarsi più in quella sede e neanche in altre. Professor Monfrecola, lei tocca la seconda domanda di Alessandro, queste piccole macchie color sangue, che cosa possono essere? Noi le chiamiamo angiomi, alcuni sì. Le chiamano voglie, cosa sono? Sono sì. Sempre benigne? Sì, senz'altro sono benigne e sicuramente, o perlomeno molto verosimilmente, si tratta di quelli che noi che definiamo angiomi rubino, perché appunto somigliano a dei piccoli rubini, sono in genere di 1, 2, 3 mm di diametro, rotondeggianti, compaiono al tronco e non hanno assolutamente diciamo nessuna valenza patologica, quindi non sono una malattia, soltanto qualche volta può essere un problema di natura estetica, per chi se lo fa naturalmente. Certo. Andiamo a Milano, c'è Miriam che ci aspetta, 800 24 00 24. Miriam, buongiorno. Buongiorno a voi. Quale macchia la preoccupa? Ci dica il colore, dove è localizzata, se è spuntata di recente, qualche indicazione. Dunque, a me è comparsa di recente, in prossimità del nasello dell'occhiale, sì. Una macchia rossa che non va via, io ancora non l'ho fatta controllare, è un occhiale che porto da tantissimo tempo, quindi non attribuisco all'occhiale la comparsa della macchia, però ce l'ho da 3 mesi e non scompare, una macchia rossa non in rilievo, quindi, che tende un pochino a non avere, diciamo, una forma, quindi è un pochino frastagliata. Un mi po' viene frastagliata. Dire. Professor Monti, le bastano queste indicazioni per dare un aiuto a Miriam? Sì, potrebbero bastare. Io penso si tratti di una cheratosi solare, o detta anche attinica. Il dorso del naso è una delle sedi di preferenza di queste lesioni. Sono i danni dovuti alla luce solare, che a un certo punto la pelle non tollera più e inizia ad arrossarsi, rimane rossa e poi più avanti, se non la eliminiamo, inizia a desquamare o magari anche ulcerarsi. Normalmente questa lesione si chiama cheratosi attinica, se ne possono formare anche delle altre, per esempio sulla fronte, in chi è calvo sulla testa e così via. Io volevo chiedere al professor Monfrecola se le macchie cambiano superficie, cambiano, diventano, compaiono delle piccole squame e soprattutto danno prurito. Sono macchie che ci stanno mandando dei segnali oppure possiamo trascurare questi sintomi? Detto così non posso darle una risposta certa, mancano molti elementi, per esempio l'età. Perché è chiaro che se parliamo di una macchia del genere in una zona esposta prevalentemente al sole, in una persona di mezza età direi che sì, senz'altro bisogna stare un pochino più attenti e farla controllare, ma poi la localizzazione, diciamo poc'anzi, se in zona fotoesposta, perché se una macchia invece mi viene in una zona non esposta, certo non posso escludere un'insorgenza di un tumore cutaneo, però certamente la cosa, diciamo, mi crea minore angoscia di una zona invece perennemente fotoesposta. La desquamazione, tutto quello che serve a attrarre la nostra attenzione, è un segno che comunque va sottoposto a un medico, un dermatologo direi. Eccoci di nuovo insieme, sono le 11.34, oggi parliamo di macchie cutanee, di tutti i colori, ne diciamo nere, marroni, quelle marroni un pochino più chiare, gialle, che noi diciamo le macchie del colesterolo, e macchie rosse, sono molto diffuse, ne sapremo di più anche con i nostri ospiti che sono in linea con noi, il professor Marcello Monti e il professor Giuseppe Monfrecola. Parleremo anche delle macchie rosse che sono presenti dalla nascita nei bambini, per capire come affrontarle, perché alcune spariscono, altre restano, e qual è la terapia. Ma adesso andiamo a sentire le ricerche, le ultime notizie che arrivano dal mondo della medicina e della scienza. GR Salute. Buone nuove sul caffè. Un consumo moderato riduce il rischio di cancro all'endometrio. Lo prova una ricerca. Professor Carlo Lavecchia, ricercatore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e dell'Università di Milano, è coautore dello studio. Noi abbiamo rivisto sia i nostri dati che tutti i dati pubblicati in vari paesi europei, americani e giapponesi sull'argomento, e tutti gli studi sono coerenti nel riportare una riduzione del rischio che arriva al 20-30% per il tumore dell'endometrio, sia del corpo dell'utero, nelle donne che consumano moderate dosi di caffè. Questa riduzione del rischio è verosimilmente dovuta al fatto che il tumore dell'endometrio è fortemente influenzato da un eccesso di estrogeni, quindi è elevato nelle donne in sovrappeso, obese, che hanno il diabete e così via. E quindi è possibile che un consumo di caffè, da un lato, influenzi favorevolmente il metabolismo degli estrogeni, acceleri il metabolismo degli estrogeni, e quindi le donne abbiano meno estrogeni disponibili e di conseguenza un minor rischio di tumore dell'endometrio. D'altra parte, noi sappiamo che un consumo moderato di caffè ha un effetto favorevole anche sull'insulina e quindi su fattori metabolici legati al diabete. Siccome il diabete è un altro fattore di rischio per il tumore dell'endometrio, è possibile che attraverso questo meccanismo metabolico il caffè eserciti un effetto favorevole. Il messaggio è quindi rassicurante, di nuovo su un'altra malattia comune e importante nelle donne in postmenopausa, per quanto riguarda un consumo modesto di caffè. E a proposito di attività fisica, i risultati di un importante studio suggeriscono un motivo in più per praticarla con regolarità e a qualsiasi età. Professor Francesco Saverio Diuguardi, Università di Milano. Uno studio molto recente ha dimostrato che anche solo 10 giorni a letto per una persona anziana significa rendergli estremamente difficile poi recuperare le capacità di attività fisica che aveva precedentemente, a meno che non se ne occupi uno specialista facendogli appunto fare ginnastica. Quindi stare molto a letto per la febbre non è una cosa che faccia molto bene, soprattutto alle persone anziane, le quali devono stare a letto soltanto per il più breve periodo possibile, ma subito dopo devono essere invitate a muoversi. E torniamo ad occuparci delle nostre macchie. Abbiamo in linea con noi Franca, che ci chiama da Vicenza all'800 24 00 24. Franca, buongiorno. Buongiorno, grazie per la trasmissione che fate. Ecco, Le mie domande sono due. Allora, la prima, io ho un figlio di 32 anni che ha una macchia, un angioma sul braccio, che a suo tempo, quando era piccolo, mi era stato anche indicato di fargliela togliere. E quelle macchie brunastre, leggermente pelose, eccetera. Lui non mi ascolta molto e io però sinceramente vorrei... Sa che non ci ascoltano mai i figli, Franca. Ecco, questo... il problema è questo. Perché le dico questo? Perché mio padre è mancato di melanoma 17 anni fa, sì. E perciò la cosa l'abbiamo vissuta in... Sì, ecco. Certo, immagino. La seconda cosa è, la seconda domanda è mia, personale. Sì. Delle macchie che sono dei nei, diciamo, ma un po' grandini, sul mezzo centimetro, a livello però superficiale come carta vetrata, colore grigiato, è dovuto all'età, sul tronco del corpo. Sì, sul tronco del corpo. Allora, basta. Finisco qui, grazie. Grazie Franca. Allora, Franca mette al lavoro i nostri due specialisti. Al professor Monti chiederei il consiglio per il figlio di Franca, che ha questa macchia un po' pelosina, però c'è un dubbio di Franca, c'è la familiarità. Il papà di Franca, appunto, è mancato proprio per un melanoma. Professor Monti. No, non penso che si tratti di nulla di pericoloso. Da come descritto, cioè la pelosità e il colore marrone, fa pensare che si tratti di un neo, anche questo non di un angioma. È un nevo che si chiama nevo di Becker, che è un nevo appunto peloso, molto superficiale, che è assolutamente benigno, non mai sono stati descritti casi di evoluzione in melanoma in questo, quindi direi... Se la diagnosi è corretta, la tranquillità è assoluta. Professor Monti, ma quando voi parlate di familiarità? Sì, quando parliamo di familiarità, perché è un dato ben noto. Chi in famiglia ha avuto un parente con melanoma, in qualche modo è più a rischio di melanoma lui stesso rispetto ad altri. Quindi bisogna una maggiore attenzione nei controlli. Mentre al professor Monfreco la vorrei sottoporre queste macchie un po' grigiastre, ci ha descritto Franca, sul tronco. Sì, macchie un po' grigiastre, la signora ha aggiunto anche un'altra notizia importante con questa superficie un po' irregolare. Dunque, avendo un figlio di 32 anni, immagino che la signora debba essere una signora di mezza età e quindi sul tronco e anche a volte sul viso, molto frequentemente le persone di mezza età sviluppano quelle che noi chiamiamo cheratosi seborroiche. Sì. Le cheratosi seborroiche sono qualcosa di molto molto tranquillo, tantissime persone le hanno, alcune ne hanno poche, altre in maniera piuttosto diffusa, e possono diventare sempre nel tempo più scure, quindi assumono addirittura un colore nerastro e una superficie molto, diciamo, verrucosa, nel senso irregolare, un po' squamosa, sempre di colore scuro. Sì. Questo non deve preoccupare, molti si preoccupano perché pensano che siano dei brutti nei, in realtà qui c'è una risoluzione molto facile, il dermatologo può proporre soluzioni come crioterapia, se la situazione lo richiede, o anche altre tecniche come la diatermocoagulazione programmata. O che cancellano queste macchie. Che cancellano queste macchie se c'è una necessità estetica, intendiamoci. Certo. E invece io tutte e due vorrei chiedere se ci sono novità nel campo del trattamento dei tumori cutanei, così affrontiamo il grande capitolo invece delle macchie marroni, delle macchie da sole, delle macchie degli anni. Professor Monfreco, ci sono novità? E poi chiediamo anche al professor Monti. Certamente ne abbiamo in questo campo, quindi al di là dell'approccio prettamente chirurgico ci sono alcuni tumori che possono essere quelli soprattutto di natura, noi diciamo, epiteliale. Il professore Monti poco fa ha fatto cenno al basalioma, allo spinalioma. Quando sono superficiali la terapia fotodinamica è una delle novità, si tratta di un qualcosa di molto semplice, di assolutamente non invasivo e che può essere praticato in ambiente dermatologico in via ambulatoriale o comunque con un semplice day hospital, e si tratta di applicare una crema, una sostanza che viene assorbita dalle cellule tumorali in maniera preferenziale rispetto alle cellule circostanti normali, e poi con una lampada che emette una luce che non è una radiazione, non sono raggi, raggi X per intenderci, è semplicemente un illuminatore ad alta potenza, ecco, si attiva la sostanza, adesso per dirla in breve, e questo determina poi un meccanismo di risoluzione del problema. Naturalmente c'è bisogno di più sedute, certo. E comunque di qualche cosa che può essere affrontato con molta serenità e soprattutto dà dei bellissimi risultati di estetici, da questo punto di vista veramente. Quindi c'è una serie di opzioni che il dermatologo deve prendere in considerazione. Non esiste la terapia del tumore cutaneo, ma si può prendere in considerazione quello che è meglio per quel paziente singolo. Ecco. Professor Monti, il professor Monfrecole è stato molto chiaro, lei vuole aggiungere qualcosa? Sì, certo, adesso si... La nuova strada è quella della immunoterapia dei tumori. In altre parole, si pensa di sfruttare il nostro sistema immunitario, soprattutto i linfociti, per andare a distruggere i tumori che stanno insorgendo. Qualcosa già si sta facendo, ci sono già delle pomate che smuovono il sistema immunitario ed possono far eliminare i tumori. Certamente il futuro ci riserva qualcosa di più specifico e di più potente, e sarà questione di qualche anno e avremo delle terapie immunologiche precise. Andiamo a Cuneo, ci aspetta Daniela, buongiorno. Buongiorno e grazie. Dunque, io volevo semplicemente fare una domanda. Dunque, sì. Sono, ho 46 anni. Sì, Daniela, può alzare un po' la voce perché io non la sento molto bene. Grazie. Sì. Dunque, io ho 46 anni e sono 34 anni che ho notato sulle braccia, sulla parte esterna, non quella verso l'interno, delle macchie che durante l'inverno, per fortuna senza abbronzatura, non si vedono. E poi d'estate si riattivano. Sembra quasi che è un braccio sporco praticamente. Diventano molto più scure rispetto al mio colore normale di abbronzatura. Quindi sono abbastanza estese, Daniela? Sì, sono abbastanza estese. E si riattivano con l'estate. Professor Monfrecola, questo capita anche sul viso di molte donne. Queste macchie abbastanza grandi che con il sole d'inverno stanno tranquille, non si vedono quasi, appena prendiamo il sole, ecco, siamo tutte macchiate. Di che cosa si tratta e che cosa si può fare? Allora dobbiamo fare una distinzione e qui ancora una volta entra in gioco l'età. Per esempio, se parliamo di macchie del viso, possiamo pensare in una donna in età compresa tra i 25 e i 50 anni al cosiddetto melasma o cloasma. Sì. Quello che invece la signora riferisce sulle braccia sembra più un problema legato proprio al tipico fotoinvecchiamento, cioè persone che si sono sovraesposte nel tempo e che comunque alla fine ne portano i segni. Ovviamente anche in questo caso il sole nuovo le riattiva. Sì. Rimanendo intanto al melasma, è una cosa molto comune nelle signore, lo conosco, è questo viso zigomi, zona tra il naso e le labbra, la fronte, sono delle macchie di forma un po' irregolare che con l'arrivo del primo sole anche in primavera diventano piuttosto scure, questo crea sconforto, poi recidivano facilmente, insomma ci sono però dei fattori aggravanti, attenzione, non determinanti, che sono la gravidanza, per esempio l'uso della pillola, quindi anche questo entra in gioco, ma diciamo che la maggior parte delle persone non usa la pillola ma comunque ha questo problema e qui naturalmente il sole ha il suo gioco perché l'esposizione solare determina una serie di problemi a livello molecolare della cute e soprattutto per la formazione di melanina. La melanina viene stimolata proprio dai raggi ultravioletti solari e la melanina serve a bloccare i radicali liberi, quindi noi produciamo melanina per cercare di limitare di difenderci. Al professor Monti tra poco chiederemo se queste macchie si possono in qualche modo attenuare, cancellare, se le creme schiarenti ad esempio servono, se bisogna far uso di altri approcci. 824 0024, ma tra poco parleremo anche di angiomi nei bambini, le macchie rosse presenti sin dalla nascita. E noi siamo qui a parlare di macchie insieme al professor Monti e al professor Monfrecola. Professor Monti, se queste macchie color marroncino noi volessimo eliminarle, come possiamo fare? Se parliamo del melasma, cloasma, la forma più frequente. Quella sul viso? Quella sul viso, esatto, quella più fastidiosa. La tecnica migliore è ancora quella del micro peeling, cioè riuscire a far desquamare la cute con una sostanza che non irrita, ma per tempi molto molto lunghi, un anno, ma a volte anche due anni. Questo conduce a uno schiarimento lento ma continuo e definitivo e non abbiamo danni, non abbiamo nessun problema, mentre le altre tecniche più invasive, il laser eccetera, possono avere alcuni rischi, quindi personalmente non le consiglio. Altre macchie invece vengono tolte di solito chirurgicamente, che è l'approccio più diretto e anche forse quello che toglie senza dare effetti collaterali importanti. Certo. Ecco. Professor Monfreco, l'abbiamo ancora, prima di parlare delle macchie rosse, le macchie gialle, noi le chiamiamo le macchie di colesterolo, è vero, c'è una relazione? Beh, allora, alcune volte sì, nel senso che si va a fare una determinazione nel sangue e si trova un aumento, cioè quello che mi chiamano una dislipidemia. Sì. Altre volte questo non c'è, ma comunque esiste il problema, in altre parole c'è questo accumulo di grassi, mettiamola così in termini semplici, e in alcuni distretti cutanei. Comunque il consiglio è, quando si hanno queste macchie gialle, rivolgersi al dermatologo per aver conferma. Sì. E poi mettere in opera, casomai con il medico di famiglia o con lo stesso dermatologo, una serie di indagini atte a svelare un'eventuale iperlipidemia, cioè un problema che è molto più generalizzato. Quindi partiamo da situazioni che sono di natura a volte semplicemente estetica, e sempre da non trascurare ovviamente per lo sconforto che danno, fino a situazioni che dal punto di vista estetico ci danno un segnale: attenzione, può esserci una dislipidemia al di sotto di questo. E quindi a questo punto poi lo studioso del metabolismo può essere chiamato in causa per mettere in opera appunto queste procedure che ci possono permettere di bloccare. A volte c'è una familiarità per queste cose, quindi molte persone le hanno tra fratelli o anche nel resto della famiglia, quindi questo indica ancora di più la necessità di approfondire lo studio di queste macchie, quindi non soltanto un problema estetico, ma talvolta anche un serio problema di carattere metabolico. Professor Monti, arriviamo alle macchie rosse, ne abbiamo parlato, ne abbiamo accennato nato già nel corso della trasmissione rispondendo dei nostri ascoltatori. Angiomi, possiamo chiamarle così, alcuni sono piatti, altri sono un po' in rilievo, spuntano ogni tanto magari sulle mani, alcuni vicino al labbro. Possiamo sempre stare tranquilli, sono sempre solo in estetismi cutanei o dobbiamo pensare a qualcos'altro? Gli angiomi intesi come i nevi rubino di cui abbiamo parlato prima sono assolutamente benigni. Gli altri più frequenti, che chiamiamo angiomi, sono i nevi cosiddetti a ragno, che si espandono come dei piccoli ragnetti sulla pelle, in termine tecnico sono teleangiectasie, cioè dilatazione dei vasi, e anche questi hanno carattere benigno, vengono spesso in gravidanza o prendendo la pillola perché c'è un influsso sugli estrogeni. Poi ci sono invece gli altri angiomi, quelli, gli angiomi capillari dei bambini, che però tendono a scomparire naturalmente, oppure le malformazioni vascolari, queste sono invece situazioni più complesse. Più diverse, che vengono solitamente trattate insieme, ma sono due problemi distinti. Assolutamente distinti. In linea con noi abbiamo il professor Ocella, che è direttore dell'unità operativa di dermatologia pediatrica del Gaslini di Genova. Professore, buongiorno. Buongiorno. A cui ho chiesto un aiuto per parlare di macchie rosse nei bambini. No? Le macchie rosse possono essere presenti sin dalla nascita, alcune di queste con l'età tendono a scomparire, ma questo non è il destino di tutte. Alcune restano e crescono perché le macchie non sono tutte uguali. Professor Ocella, allora ho bisogno del suo aiuto. Ci sono macchie un pochino più piane e ci sono macchie invece che sono più in rilievo. Come possiamo, nei bambini sono abbastanza frequenti, come si interviene e come, soprattutto qual è l'iter? In primo luogo bisogna fare una distinzione, come diceva lei, dobbiamo distinguere alla nascita le malformazioni vascolari, che sono le macchie rosse, cioè le macchie di vino, che sono presenti alla nascita come tali e che non andranno mai via. Sì. Dobbiamo distinguerle dagli emangiomi, che sono delle proliferazioni vascolari, proliferazioni di capillari benigne, che alla nascita si presentano come un piccolo puntino, una piccola macchietta rossa, a volte quasi invisibile, che poi nelle settimane successive crescono in maniera a volte tumultuosa, raggiungendo anche dimensioni ragguardevoli, dalla piccola ciliegia alla dimensioni di un mandarino. Mentre le prime, quelle piane, quelle le voglie di vino, come le voglie di vino sono presenti in un bambino su 300, più o meno nel 0,3% dei neonati. I secondi, cioè gli emangiomi, sono presenti nel 10% dei neonati. Sì, quindi per quanto sono riguarda più la loro evoluzione, le macchie di vino non vanno mai via e dovranno essere trattate, mentre invece gli emangiomi, in una buona percentuale di casi, nel 50% ed oltre dei casi, nel giro di 6-7 anni possono regredire spontaneamente e quindi non si trattano. in certi casi devono essere trattati o per le loro dimensioni o perché sono localizzati in sedi in cui funzionalmente possono creare dei problemi, cioè se sono per esempio localizzata la palpebra, per esempio l'emangioma, questa tumefazione può impedire lo sviluppo della vista e quindi l'emangioma deve essere trattato. Quindi oltre a fare questa distinzione è importante anche la localizzazione. Quando lei dice ha bisogno di essere trattato, ci sono delle novità, come si trattano, professor Ocella? Allora, per quanto riguarda gli emangiomi, cioè quelli che crescono, devono essere trattati quando creano dei problemi. Le terapie sono, si fanno dei brevi cicli di cortisone per via generale che ne bloccano la crescita e ne favoriscono l'involuzione, oppure la recente novità è il trattamento con propanololo, un beta bloccante, è una terapia recentissima che sembra che dia dalle prime esperienze dei buoni risultati. Bene. Questa è la vera novità per quanto riguarda gli emangiomi. Per quanto riguarda invece il trattamento degli angiomi piani, delle malformazioni, cioè delle macchie divine, si utilizzano i laser, il dye laser, cioè i laser vascolari, sono gli unici che possono dare dei buoni risultati perché procedono allo schiarimento progressivo della lesione. Quindi grazie professor Ocella, abbiamo dato anche delle novità, grazie per essere intervenuto, la saluto e le auguro una buona giornata. A voi. Allora, noi abbiamo proprio un minuto per rispondere a Daniela che ci chiama da Brindisi. Daniela, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io ho 35 anni e ho un bambino di 9 anni e mezzo che purtroppo, a quanto pare come me, perché io sono veramente piena di nei, e lui ha notato che ne stanno uscendo diversi in questi anni. Però per rimanere in tema, visto che parlavate di macchie, io mio figlio ha notato da qualche anno ha una macchia rossa sulla pancia abbastanza estesa, si è un po' estesa nel tempo, ma ultimamente ne è uscita un'altra piccola sotto. Sì. Quindi volevo sapere, ecco, appunto, cos'era, cosa dovevo fare e soprattutto come devo, diciamo, prevenire un pochino, se posso prevenire l'uscita di altri nei, se il sole devo proteggerlo ancora di più di quello che già faccio al sole. E poi per quanto mi riguarda, invece le volevo chiedere ai professori, io ho tolto un neo displasico sul petto. E volevo sapere appunto se posso star tranquilla che il neo sia stato tolto bene, che magari non succeda nient'altro. Allora Daniela, tantissime domande, un mezzo secondo perché noi dobbiamo salutare, avrei voluto parlarvi di Zumba, vi parlo domani. Professor Monti, allora per il neo Daniela, se l'hanno tolto può star tranquilla, no? Sì, un nevo displasico è comunque un nevo, quindi una volta tolto, una volta fatta l'istologia con quella risposta è tranquilla. Serena, ok. Professor Monfrecolo, un aiuto per invece rapidamente per il bambino di Daniela, queste macchie che rispuntano, quale indicazione si può dare? Solo una visita dermatologica. Una visita dermatologica, ecco, così non è possibile attardare una diagnosi. Così Daniela ne approfitta per farsi dare una controllatina anche a lei. Allora, professor Monti, professor Monfrecola, grazie per essere stati con noi, per averci aiutato a capire qualcosa di più delle nostre macchie. Vi auguro buona giornata. Buona giornata a lei. Buona giornata. E noi invece ci sentiamo domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Buon lunedì da Nicoletta Carbone.